Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus non esclusa l'estensione delle misure oltre il 3 aprile, dice la ministra dei trasporti De Micheli. Ancora una vittima tra i medici, il segretario del FING di Lodi aveva 57 anni. Pubblicato il decreto Cura Italia, in arrivo la sospensione delle rate del mutuo anche per le 200.000 partite IVA. La BCE fa sapere di essere pronta a nuove misure per sostenere la liquidità e contrastare il crollo dell'economia. Oggi borse di nuovo in calo e spread che risale a oltre 300 punti. Negli Stati Uniti colpiti tutti e 500 gli stati americani. Intanto Joe Biden è sempre più vicino alla nomination democratica, ha sconfitto Sanders anche alle primarie di Florida, Illinois e Arizona. E buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Apriamo anche oggi con un'ampia pagina di notizie dedicata al coronavirus. Le misure di contenimento, avete sentito dai titoli, potrebbero essere prorogate oltre il 3 aprile, ha detto la ministra De Micheli oggi. Intanto sale anche il numero dei medici deceduti per il Covid-19. È morto oggi un medico di Lodi, era il segretario della Federazione dei Medici di Medicina Generale, aveva 57 anni e non risultava avere particolari patologie pregresse. Intanto il contagio riguarda ormai il mondo e gli Stati Uniti, con tutti gli stati americani, mentre in un'altra giornata negativa per i mercati finanziari con pesanti perdite, la BCE annuncia nuovi possibili interventi. Ma iniziamo dall'Italia. Medici e infermieri sempre più esposti al contagio e spesso senza tutele. A sottolineare la gravità della situazione, la Fondazione Gimbe, che rielaborando dati dell'Istituto Superiore di Sanità, parla di 2.629 operatori sanitari positivi al coronavirus, e cioè l'8,3% dei casi totali, percentuale più che doppia rispetto alla Cina. E sale purtroppo anche il numero dei medici che hanno perso la vita. È morto il segretario dei medici di famiglia di Lodi, Marcello Natali, 57 anni e senza gravi patologie pregresse. In totale, secondo i dati della Protezione Civile di ieri, supera quota 26.000 il numero degli italiani positivi al coronavirus, 2.989 nuovi casi di contagio, 345 le nuove vittime, per un totale di 2.503. E intanto proseguono le verifiche del Viminale, oltre 172.000 le persone controllate ieri, quasi 8.000 denunciati per inosservanza delle misure che, ha detto questa mattina la ministra dei trasporti Paola De Micheli, potrebbero essere estese oltre al 3 aprile. Si valuterà sulla base dei numeri dei prossimi giorni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La situazione maggiormente critica resta quella della Lombardia per l'elevato numero di casi, anche nuovi casi, anche nell'aggiornamento di ieri, e con il post in terapia intensiva che sono via via in esaurimento. A che punto è allora il progetto per la costruzione di un reparto ospedaliero all'interno della Fiera di Milano? Rosanna Magnano ne ha parlato con il presidente dell'ente Fiera, Enrico Pazzali. Stiamo in questo momento completando le specifiche funzionali e stasera presentiamo la proposta in regione. Quali sono gli step del progetto? Dobbiamo costituire delle sale ospedaliere, un ospedale vero. La differenza vera che stiamo facendo con Wuhan, non stiamo producendo un ospedale da campo, ma stiamo producendo un ospedale vero temporaneo. Col secondo blocco è il reperimento delle apparecchiature di terapia intensiva e ovviamente ospedaliere, che è un elemento non banale perché, come potete immaginare, a livello mondiale le produzioni sono ormai sature e c'è un grandissimo lavoro di regione per il reperimento, sia con il governo sia in autonomia, queste macchine. La terza, quella più importante e soprattutto quella che può far la differenza, è il personale medico e infermieristico nella gestione di questa struttura, che come potete immaginare è carente perché insomma siamo in emergenza. Si parla di 400 letti, che tempi ci sono per allestirli? Il tema dell'ospedale temporaneo vedrà una leggera riduzione di letti, perché ovviamente stiamo posizionando, dobbiamo in qualche modo cercare al tempo T0, che potrebbe essere domani o stasera o dopodomani. Noi la scatola credo che nel giro di appunto una decina di giorni ce la dovremo fare. E così dunque il progetto per la costruzione di un vero e proprio reparto ospedaliero all'interno della Fiera di Milano per alleviare il carico sugli ospedali già molto appunto sovraccaricati. Uno degli altri punti critici di questa emergenza è la dotazione di dispositivi di protezione per chi è esposto. Mancano in sostanza le mascherine per chi sta lavorando direttamente sull'emergenza come i medici, ma anche per la polizia, l'esercito impegnati nei controlli sulle strade o per chi lavora nei supermercati o nei mezzi pubblici. La produzione di mascherine in Italia era già molto ridotta prima della crisi e quasi tutto quello che veniva prodotto veniva esportato. Le importazioni invece in questo momento, come sapete, sono difficili, dagli altri paesi alle prese anche loro con l'emergenza. Dunque molte aziende in questi giorni stanno cercando, aziende anche non del settore sanitario, di riorganizzarsi per mettere a punto una produzione interna. Mancano mascherine negli ospedali, nei supermercati e nelle fabbriche, e allora l'industria tessile italiana si mette a disposizione per la fase di emergenza, utilizzando anche l'articolo 15 del decreto legge che consente di autocertificare il rispetto delle normative. Servono macchinari per la filatura, sono un centinaio le imprese già in azione, capofila l'ammiraglio di Alba e poi dai distretti del tessile di Como, Prato, Bergamo e Biella. Ma non si tratta di una stabile riconversione industriale, ci spiega il presidente di Confindustria Moda Claudio Marenzi. È un grande malinteso. Ho sentito parlare di conversione industriale di aziende di produzione di moda che si mettono a fare le mascherine. Non è una conversione. Stiamo parlando di volontariato. Mi sembra che ci siano degli ospedali, soprattutto nella Bergamasca, che si fanno le mascherine ormai con le lenzuola tagliate. Ecco, allora noi entriamo in quella fase. Piuttosto che farvi tagliare lenzuola, se volete ve le facciamo noi, però mallevandoci da ogni responsabilità. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora le notizie economiche. La BCE continuerà a monitorare da vicino le conseguenze per l'economia della diffusione del coronavirus ed è pronta ad aggiustare le proprie misure se fosse opportuno per garantire le condizioni di liquidità del sistema bancario. È quanto si legge in un comunicato di oggi della Banca Centrale Europea. In mattinata, ma ancora adesso, sono pesanti le perdite sui mercati finanziari. Milano in questo momento cede il 2,75%, Francoforte il 5,4%. Abbiamo sottostimato l'emergenza, tutti noi, ha ammesso oggi la presidente della Commissione europea von der Leyen. L'Europa blinda le frontiere e si prepara a scenari eccezionali sul fronte economico con misure impensabili persino durante la recente crisi finanziaria. L'ultimo paese a chiudere ogni attività non essenziale sul modello italiano è stato il Belgio, mentre nel mondo i contagi viaggiano verso la quota record di 200.000 con 8.000 vittime. In Spagna, il quarto paese più colpito globalmente, il premier Sanchez ha annunciato una finanziaria di ricostruzione sociale ed economica non appena la crisi sarà superata. In Francia, appello del ministro dell'economia Le Maire ai lavoratori dei servizi essenziali a recarsi al lavoro, mentre il premier Philippe non esclude nazionalizzazioni. In Germania la cancelliera Merkel parlerà stasera al paese, mentre si segnalano code di tir di 60 km al confine con la Polonia. E in Gran Bretagna misure di razionamento ai supermercati per evitare l'esaurimento delle scorte di beni essenziali. La crisi Covid-19 potrebbe avere persino l'effetto positivo di sbloccare eurobond di emergenza, piegando le invalicabili resistenze tedesche, oppure un fondo di garanzia comunitario per finanziare le iniziative dei governi. Oggi due vertici in videoconferenza tra i ministri europei, prima i titolari dei trasporti per discutere la crisi dei tir bloccati nel reticolato delle frontiere interne sigillate con merci che non arrivano a destinazione e più tardi riunione congiunta dei ministri della salute e degli interni. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E negli Stati Uniti adesso l'ex vicepresidente americano Joe Biden ha travolto il suo avversario Bernie Sanders alle primarie democratiche in Florida, ma anche in Illinois e Arizona. Adesso la nomination per lui è più vicina verso la sfida con Donald Trump, anche lui confermato il prossimo 3 novembre alle elezioni presidenziali. Intanto, in vista delle elezioni, ma anche per l'attività della Casa Bianca, è la sfida del coronavirus ad essere sempre più centrale. Trascurato e a lungo sottovalutato, il coronavirus ha ormai colpito tutti i 50 stati americani, oltre alla capitale federale Washington DC, e proprio ieri si è registrata un'impennata di casi. I contagi hanno superato quota 6.400 e il bilancio delle vittime è salito a 118. Con questo aggiornamento gli Stati Uniti sono ora l'ottavo paese al mondo per numero di contagiati e di morti. Il governo federale, anche se in ritardo, ha deciso alla fine di adottare il lockdown del paese, chiedendo agli americani di restare a casa e di evitare ogni incontro tra più di 10 persone. E la pandemia da coronavirus ha prepotentemente fatto irruzione anche alle primarie per le presidenziali USA, diventando il principale argomento della campagna elettorale. Dopo l'ennesimo super martedì delle primarie democratiche, in cui Joe Biden ha spazzato via Bernie Sanders, vincendo in altri tre stati, Florida, Illinois e Arizona, l'ex vicepresidente ha ringraziato i suoi elettori con un messaggio trasmesso da casa. Nel suo discorso Biden si è rivolto anche a Sanders, proponendogli di unire il partito e il paese per battere a novembre Donald Trump, che nel frattempo si è assicurato la nomination repubblicana alla convention di fine agosto. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo in Italia, perché è stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il decreto Cura Italia. Adesso è legge, un lungo articolato di misure che stanno emergendo poco a poco. Sentiamo. Cassa integrazione in deroga fino a 9 settimane per tutte le imprese, anche quelle normalmente escluse dagli ammortizzatori sociali. E poi mutui prima casa sospesi anche per 200.000 partite IVA. Lo prevede il decreto Cura Italia, diventato legge dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per i lavoratori autonomi in arrivo anche un'indennità di 600 euro per il mese di marzo. Bloccati i licenziamenti per i prossimi 2 mesi e stop fino al 31 maggio anche ai versamenti per imprese e professionisti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro. Per le famiglie previsti congedi speciali al 50% della retribuzione per chi ha i figli a casa e bonus babysitter fino a 600 euro. Per avere il bonus babysitter, il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, invita a usare il sito dell'istituto. In 2 settimane, dice in un'intervista a Repubblica, saremo operativi per assicurare i 10 miliardi di aiuti stanziati dal governo a 11 milioni di persone, tra lavoratori e famiglie. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto l'antitrust ha sospeso la commercializzazione di un farmaco antivirale venduto a più di 600 euro. Secondo l'autorità, il farmaco generico Caletra, che contiene i principi attivi per il trattamento delle infezioni da HIV, veniva reclamato come l'unico farmaco contro il coronavirus, anche se al momento, come dichiarato dalle autorità sanitarie mondiali, non esiste una cura efficace per combattere il virus. Adesso parliamo degli spot sociali che cambiano in questi tempi di coronavirus. Gli appelli e i messaggi istituzionali ormai coinvolgono anche volti noti. Restare a casa usando la saggezza dell'età e dell'esperienza. Per sensibilizzare gli anziani scendono in campo i personaggi dello spettacolo, sì, ma quelli non più ragazzini. Salve, sono Gigi Proietti. Vi saluto da casa mia. Parlo a voi non più giovanissimi e quindi miei coetanei. Il tempo passa per tutti. Ne abbiamo visti di momenti difficili, ma vedrete, supereremo anche questo. Questo è il messaggio ai nonni d'Italia su tutti i canali della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi però si era impegnato sulla sua pagina Facebook anche Renzo Arbore. A tutti i maggiori degli anni 60, a tutti i maggiori degli anni 60, rimanete in casa e approfittate per scoprire internet. Intanto Lino Banfi, con il cagnolino in braccio, rassicura. Questi non fanno niente, fanno compagnia. Quindi non bisogna abbandonarli assolutamente, perché non portano malattie e non le prendono. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport. Dopo la decisione, quel che resta dello sport, come abbiamo detto più volte in questi giorni, dopo la decisione di rinviare, appunto, a data da destinarsi gli europei di calcio, con le Olimpiadi ancora in forze, si cerca di delineare i calendari del futuro che regaleranno, a questo punto, per forza di cose, nei tempi a venire, un concentrato di eventi suggestivo. Sentiamo. Ci vorrà tempo, pazienza, perseveranza e capacità di pianificazione. Ma alla fine la battaglia contro il coronavirus potrebbe portare anche un regalo inatteso agli appassionati di sport di tutto il mondo, cioè un 2022 mai visto, con 2 Olimpiadi e un campionato del mondo di calcio. Andiamo con ordine. In quell'anno sono già in programma i giochi invernali di Pechino, dal 4 al 20 febbraio, e i discussi mondiali di calcio del Qatar, collocati tra il 21 novembre e il 18 dicembre proprio per sfuggire al torrido clima dell'Emirato. Ebbene, se la pandemia non si arrestasse in tempi ragionevoli, il CIO potrebbe pensare di rinviare i giochi di Tokyo non al 2021, anno già saturato dai mondiali di diverse discipline, ma proprio al 2022, magari sempre nel periodo luglio-agosto, ristabilendo così una contemporaneità tra le Olimpiadi estive e invernali che manca ormai dal 1992. Scenario futuribile, ma non improbabile, in attesa di vincere. Ora e al più presto, tutti insieme, la partita più importante. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:15 minuti, facciamo una piccola pausa. Effetto giorno torna tra poco dopo il break. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Parleremo di quella che sta diventando una vera e propria emergenza nell'emergenza, cioè i medici, che corrispondono quasi all'8% del totale dei contagiati, che in molti casi sono senza mascherine, e pensiamo ai medici di base, di cui ci siamo un po' dimenticati in questi giorni, presi giustamente dall'emergenza all'interno degli ospedali, però anche loro stanno pagando un tributo alto. Oggi è morto uno di loro a Lodi. Questo tra poco, vi ricordo, 349-238-6666. One Express, il pallet espresso. Vi presenta. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus non esclusa l'estensione delle misure oltre il 3 aprile, dice la ministra De Micheli. Ancora una vittima tra i medici. Il segretario del Finge di Lodi aveva 57 anni. Privi di mascherine, quelli di base, dentro turni massacranti negli ospedali, per i medici ormai è emergenza vera. A effetto giorno parla il presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo. La BCE fa sapere di essere pronta a nuove misure per sostenere la liquidità e contrastare il crollo dell'economia. Oggi borse di nuovo in calo pesante, spread oltre i 300 punti. Negli Stati Uniti colpiti dal virus tutti e 50 gli stati. Intanto Joe Biden sempre più vicino alla nomination democratica dopo la vittoria alle primarie di Florida, Illinois e Arizona. Tredici e 18 minuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, in diretta con Effetto Giorno, come anticipato già dai titoli, è con noi il presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, Guido Marinoni. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, grazie per essere con noi in questi, in queste giornate complicate, veramente complicate. Allora, insomma, le notizie non mancano. Oggi sono i dati del GIMBE, la fondazione GIMBE, che dicono che l'8% di tutti i contagiati complessivamente sono proprio medici. Solo a Bergamo 106 medici di base risultano essere malati e fuori. A me risultavano 110 ieri mattina. 110, allora abbiamo una notizia non aggiornata. Insomma, numeri veramente pesanti. Tra l'altro, prima di arrivare proprio alla questione sulle difficoltà, in particolare anche dei medici di base, le voglio chiedere però, Marinoni, intanto, visto che Bergamo è la città con il numero di casi più elevato in assoluto e per quanto riguarda il numero pro capite, cioè rispetto alla popolazione, siete comunque, mi pare, al terzo posto dopo Lodi e Cremona. Com'è la situazione in queste ultimissime ore per quello che sono le sue notizie? Ma io intanto vorrei dire dei numeri che sono i dati che ci sono, però al momento i tamponi vengono fatti soltanto ai pazienti che vengono ricoverati, quindi tantissimi, ma una minoranza di persone. In realtà le persone ammalate che sono a casa, alcune con forme lievi, altri anche con polmonite, ma stabili, non vengono contati. Quindi rispetto al numero dei casi c'è una enorme sottostima. Mentre invece per quanto riguarda il numero dei decessi, sì, anche lì c'è una certa sottostima perché i deceduti a casa non fanno il tampone, quindi non vengono contati, però ci sono tutti deceduti in ospedale. Questo poi porta certamente a una sovrastima della mortalità, che non è quella che verrebbe fuori da questi numeri. No, certo, per questo, per quanto riguarda un calcolo puramente statistico, ecco, resta poi però qui le evidenze poi sono tutte davanti ai nostri occhi. Qui è drammatico, ci sono le camere mortuarie che non sanno più dove mettere i morti, l'Eco di Bergamo che esce con 11 pagine di necrologi invece di una. La gente ormai ha capito, non si vede per fortuna più in giro nessuno, perché veramente c'è una situazione esplosiva. Senta Marinoni, le voglio chiedere una cosa relativamente proprio ai medici di base in particolare, perché noi inizialmente ci siamo concentrati giustamente sui medici all'interno degli ospedali, ecco. Che sono quelli, diciamo, in prima linea, però per tutta una serie di contagi, per le prime cure, anche per i casi di chi può riportare il coronavirus, ma anche per le cure e tutto il resto, ci sono sempre i medici di base in azione. Ci risulta che molti di voi abbiano ricevuto poco o nulla in termini di disposizione di dispositivi sanitari necessari in questa fase, diciamolo chiaramente, necessari per arginare il contagio oltre che per proteggere i medici stessi. Per esempio le mascherine, pochissime. Qual è stata la dotazione ricevuta dai medici? Quali criteri sono stati utilizzati all'inizio per fornirle? Ma praticamente non è arrivato quasi nulla. Nel senso che all'inizio, la prima settimana, sono state date 18 mascherine chirurgiche a tutti i medici della provincia, in Val Seriana mi pare 28. Poi ne sono state date altre 5 e poi ieri altre 7. Quindi una dotazione pressoché nulla. La mascherina chirurgica, al di là di disquisizioni sul fatto che protegga o meno, pare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dica che può anche andare bene in situazioni particolari come queste, ma il problema è che è proprio monouso, nel senso che è leggera e dopo un po' che la si tiene si sporca. Certamente io non posso utilizzare questa unica mascherina tutto il giorno visitando 20 pazienti, pensando poi di non essere contagioso. Di fatto i medici di medicina generale in provincia di Bergamo sono andati in giro con materiale che si sono riusciti a comprare, ma oggi andare a cercare le mascherine o i camici anche, che sono importanti, gli occhiali, sempre di andare a comprare la merce. Mi sembra chiaro, lo dico anche agli ascoltatori, che questa sta emergendo, che è una delle vere e proprie concause del focolaio, non solo di Bergamo, ma anche di altri focolai, perché capite bene che se i medici di base, che comunque trattano le persone, sono quelli che dovrebbero visitare chi ha i primi sintomi, non hanno le mascherine, non ne hanno poche, non le hanno, o addirittura all'interno dei medici ospedalieri le hanno, ma magari ne hanno una al giorno e quindi non possono togliersela durante 12 ore, devono bere con la mascherina perché se la tolgo poi la devo gettare, devo prenderne un'altra, ma un'altra a disposizione non c'è. Questo è una vera causa, con causa di questi focolai. È d'accordo, dottor Marinoni, o è un'interpretazione, come dire, avventata, suggestiva? Si cercano comunque dei capi espiatori. L'importanza di questi dispositivi per voi è cruciale o sbaglio? Sì, ma in realtà adesso, al di là dei lutti, e Marcello Natali era un mio caro amico, il problema è che questa cosa ha comportato la diffusione del contagio. Però giustamente lei diceva è inutile fare polemiche, in realtà se i mezzi di protezione individuale non ci sono e non li si possono generare dal nulla, io sono convinto che tra 20 giorni ne avremo una quantità immensa se si sbloccano tutte le forniture, purtroppo non serviranno più. Quello che è stato sbagliato è stato sottovalutare questa cosa dall'inizio, diffondere il contagio come è avvenuto, mentre invece si sarebbero dovute concentrare, ma questo è previsto anche da uno dei decreti ministeriali, le poche risorse di protezione disponibili in unità operative più ristrette sul territorio, in cui si potevano arruolare medici di medicina generale, medici della guardia medica, medici militari, dotarli di tutto punto in pochi e fargli gestire l'assistenza Covid, compresi i malati a casa con la broncopolmonite, in modo ben equipaggiato. Gli altri medici potevano fare altre attività, cavo seduto telefonico, curare i pazienti con altre patologie, lavori di back office, sarebbero stati comunque impiegati. E invece abbiamo dato un fucile di cartapesta a tutti e abbiamo mandato avanti la fanteria. È stato un errore clamoroso. Quando c'è la guerra si fanno i commandos ben equipaggiati, non si manda avanti la fanteria con i fucili di carta. Senta, a proposito di equipaggiamenti, Marinoni, fa parte anche di questo equipaggiamento il fatto di sapere se un medico o un infermiere è contagioso, magari asintomatico, ma ha il coronavirus, perché capite bene che questo, intanto la persona probabilmente dovrebbe mettersi in qualche modo a riposo, ma poi rischia davvero di allargare il contagio all'interno dell'ospedale. L'OMS proprio oggi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, invita a fare tamponi a tutti gli operatori sanitari. Perché non si è fatto fin qua questo? Non si è fatto fin qua per una scelta che è stata fatta da Regione, nell'ambito sempre di una sottovalutazione del territorio, secondo me se sia Regione ad ATS in questa cosa, in realtà è sbagliato. Non so se a Bergamo oggi estendere tanto i tamponi sia poi così utile, perché con la situazione in cui siamo di contagio, secondo me sì, almeno quelli con la polmonite a casa dovrebbero essere. Cioè, magari ci si doveva almeno pensare prima, adesso nel caso di Bergamo lei dice è come chiudere le stalle quando i buoi, scusate l'espressione, sì, un però po' così. Almeno agli operatori sanitari andrebbero fatti, anche se asintomatici, e almeno ai pazienti con la polmonite a casa andrebbero fatti, cosa che comunque non viene fatto nemmeno questo. In realtà, in una fase iniziale della diffusione dell'epidemia, e penso alle altre regioni d'Italia o all'Europa, fare dei tamponi in modo più estensivo, in modo da risalire ai portatori, ai focolai e al contagio, che è stata un po' la scelta del Veneto, in una fase iniziale dell'epidemia, secondo me, poi non è che sia poteva autorità, ma secondo me sarebbe stato utile. Ora a Bergamo noi direi che siamo siete oltre, e non vorrei che altre realtà del nostro paese e dell'Europa fossero come noi, ma lo temo moltissimo, per cui quando sento delle incertezze sul prorogare o meno oltre al 3 aprile le misure che ci sono in atto, mi chiedo se siamo pazzi anche solo a pensare. Cioè, secondo lei non, adesso non c'è neanche da pensarci, bisogna ma andare oltre il 3 aprile. Vorrei dire distruggere, fare i morti, ma veramente. Mi sembra che ancora a voce non altissima, ma sia questa un po' anche l'intenzione. Per esempio oggi un ministro del governo ha detto ci stiamo pensando, stiamo valutando, vedremo i dati. Oggi alle 18 ci sarà una nuova conferenza stampa con i nuovi dati, il capo della protezione civile ci aggiornerà e staremo a vedere, però intanto la sensazione è questa. Grazie Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, grazie davvero per il lavoro che state facendo e anche per il tempo che ci ha dedicato. Insomma, viene da mettersi le mani nei capelli, quelli che restano sulle nostre teste, dopo aver sentito questa intervista. E allora però diciamo che si può andare di male in peggio, perché adesso apriamo una piccola finestra su un altro settore, che è un settore a metà tra la sanità e il resto. Parlo del settore socio-sanitario, dove si garantiscono servizi sociali o assistenziali ad anziani, minori, in case famiglia, residenze con persone disabili. Pensate che, secondo una statistica, il 30% dei medici a lavoro in questi centri è stato contagiato. Pensiamo al caso del focolaio nelle Marche, dove in una casa di cura 26 pazienti su 28 erano infettati. Bene, per molte di queste persone l'assistenza è a rischio, parliamo di 6 milioni di persone. Cristina Carpinelli. Garantire la sopravvivenza della rete dei servizi sociali è quanto chiedono in un disperato appello collettivo gli operatori al lavoro in case famiglia, residenze per anziani o con malati psichiatrici. Si tratta di una prima linea invisibile ma esposta, spesso senza adeguati presidi medici. Per ora la situazione è a macchia di leopardo e riguarda 300.000 tra medici, infermieri, educatori che restano operativi nell'assistenza ai più fragili. Alcuni hanno rimediato da soli recuperando mascherine e guanti. Qui siamo nella sede di Eris, vicino al parco di Rogoredo. Si lavora con persone tossicodipendenti. Diego Inghelleri è uno dei medici al lavoro. L'emergenza sanitaria è vissuta con la massima attenzione, indicazioni e precauzioni diramate dagli organi competenti. È una strategia fondamentale anche per arginare preoccupazioni e paure e non perdere lucidità. Così abbiamo potuto continuare ad offrire trattamenti ai nostri pazienti, in particolare di supporto in questa fase estremamente critica, e farmacologici già in atto e irrinunciabili. Servizi che non possono chiudere, come conferma Matteo Riccio, un educatore dottore. Non possiamo chiudere perché siamo un servizio pubblico e dobbiamo garantire la cura. E così si lavora, facendo fronte anche alla paura, perché secondo gli ultimi dati circa il 30% degli operatori, soprattutto in Lombardia, è già in quarantena perché positivo al coronavirus o ricoverato con un quadro clinico grave, soprattutto tra Bergamo e Brescia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:30, facciamo una piccola pausa, effetto giorno torna tra poco. 349-238-6666, ci trovate anche sulla pagina Facebook del programma. Ripartiremo dal monitoraggio fatto dalla Regione Lombardia attraverso le celle telefoniche, in base al quale, lo sapete, è stato detto ieri sera, c'è ancora troppo movimento, troppa gente in giro, il 40% di persone in movimento in questa situazione difficile. Cercheremo di capire però chi si sta effettivamente muovendo, per fare cosa, perché ricordiamoci che abbiamo aziende aperte, l'agricoltura che funziona per approvvigionare i supermercati, supermercati che funzionano, le poste, i servizi essenziali. La mattina ci sono delle foto che circolano in metropolitana. A Milano c'è l'affollamento perché ci sono meno metropolitane e chi deve andare a lavorare deve prenderle. Questa è la situazione oggi in Lombardia, almeno a Milano, la città che conosco, ma i dati sono un po' gli stessi da tutte le parti, perché ripeto, si sta ancora lavorando, l'Italia non è ferma, quindi sorprenderci che c'è un 40% di movimenti, insomma, è una cosa da vedere. Ne parliamo tra poco con il vicepresidente della Lombardia, Sala. Siamo stati colpiti, ma siamo consapevoli. Siamo distanti, ma siamo uniti. Siamo italiani. Venerdì 20 marzo, ore 11. Alza il volume della tua radio. Esci sul balcone, sventola un tricolore o ciò che ti fa sentire italiano. E canta. Canteremo tutti insieme. Tira fuori tutto. La speranza, la voglia e la forza. E l'orgoglio di essere italiani. Per sentirci più vicini. Per la prima volta nella storia tutte le radio unite sono con te. La radio per l'Italia. E ricorda, andrà tutto bene. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus non esclusa l'estensione delle misure oltre il 3 aprile, dice la ministra De Micheli. Ancora una vittima tra i medici. Il segretario del FING di Lodi aveva 57 anni. Aumentano controlli e sanzioni per gli spostamenti non autorizzati. La Lombardia misura dalle celle telefoniche il 40% di persone in movimento, ma c'è chi è costretto ad andare al lavoro, magari sui mezzi pubblici affollati. Accade il mattino presto a Milano, ne parliamo tra poco col vicepresidente della regione, Sala. Pubblicato il decreto Cura Italia, in arrivo la sospensione delle rate del mutuo anche per 200.000 partite IVA. La BCE fa sapere di essere pronta a nuove misure per sostenere la liquidità contro gli effetti del coronavirus. Oggi borse di nuovo pesantemente in calo, Milano cede il 3%. Negli Stati Uniti colpiti tutti e 50 gli stati americani. Intanto Joe Biden è sempre più vicino alla nomination democratica dopo la vittoria alle primarie in Florida, Illinois e Arizona. Minuti. Ben ritrovati cari ascoltatori, avete appena sentito i principali titoli di oggi, le notizie di oggi, e adesso è il momento dei vostri messaggi al 349-238-6666. Velocemente, perché siamo già un po' lunghi coi tempi, leggo solo un messaggio di una dottoressa, Anna Teresa, che dice: i tamponi andrebbero fatti agli operatori sanitari che possono contagiare i pazienti, mette tre punti esclamativi, in Lombardia non vengono fatti. È quello che dicevamo poco fa col presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, Marinoni. Effettivamente questo. E poi c'è da sottolineare anche come in questo messaggio questa dottoressa lo dica mostrando di preoccuparsi per il possibile contagio nei confronti dei pazienti, nemmeno per la salute del medico, che pure, abbiamo già detto, l'8% dei tutti i casi di coronavirus in questo momento in Italia sono medici, quindi sono veramente in primissima linea. Ma di più, senza dispositivi sanitari, senza mascherine e senza fare il tampone rischiano di favorire il contagio. C'è una notizia di poco fa di Di Maio che dice che sono in arrivo, adesso non la trovo più, eccola, 800.000 mascherine stanno arrivando in Italia in questi minuti. È il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. La crisi del coronavirus passerà alla storia come quella dell'11 settembre, come l'ecatombe causata dalla spagnola nel 1918, come la peste del 600. Ma ciò che è diverso è l'effetto sull'economia, diretto e fulminante. Ed è per questo che anche i mercati finanziari sono spaventati, come e forse più che ai tempi della Lehman Brothers. Si è bloccato il turismo e vale 160 miliardi, si è fermato il settore aereo, che ora chiede aiuti per 200 miliardi di dollari a livello globale, auto e moto sono in caduta verticale, l'85% delle fabbriche nei distretti lombardi, che valgono il 22% del PIL, sono ormai chiuse, l'export si è strozzato e le banche faticano naturalmente a dare credito a chi sta perdendo ordini e commesse. Il crollo del PIL, secondo non pochi analisti, è arrivato nel primo trimestre vicino a meno 5%. È anche per questo che è tornata la tensione sui nostri spread. L'Italia torna all'anello debole col suo carico di debito anomalo che verrà ulteriormente appesantito. La BCE compra BTP ma non sembra bastare. Solo l'Europa, la nuova Europa di Ursula von der Leyen, ci può tirar fuori dai guai. E lo sa, ma lo deve fare subito. E ora, come anticipato, è con noi Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora Sala, senta, voi avete monitorato, ormai la notizia è circolata molto nelle ultime ore, gli spostamenti dei Lombardi, siete giunti alla conclusione che ci sono ancora troppi movimenti, troppe persone in giro, il 40% circa di spostamenti rispetto alla media. Nel frattempo, aggiungo solo questa notizia per dare la misura di quanta preoccupazione ci sia ancora nelle istituzioni, il vostro collega del Veneto, Luca Zaia, insiste per rafforzare le misure già adottate, chiudere i negozi anche la domenica, propone di fare tamponi a tutto il personale esposto, medico e non solo. Insomma, mi sembra che ci sia un timore ancora più che nei giorni passati, forse se possibile, per questa escalation di contagi registrati che possa non rientrare. Insomma, voi intanto che cosa avete misurato, Sala? Allora, noi abbiamo preso un giorno tipo di tranquillità di vita della Lombardia, che è il 20 di febbraio, che è il giorno che poi dopo alla sera abbiamo avuto. Il giorno prima. Esatto. Quindi abbiamo preso quel giorno e abbiamo calcolato dalle celle della telefonia mobile, abbiamo calcolato quanti spostamenti, cioè quanti agganci e sganci ogni singola cella fa. Quindi non siamo andati a verificare, qui sgombriamo i dubbi, il cellulare di chissà chi. No, abbiamo fatto questa rilevazione dalle celle che le compagnie telefoniche ci hanno messo a disposizione. Una media statistica. Allora, abbiamo preso questo giorno tipo, questo 20 febbraio, e poi l'abbiamo riportato ai nostri giorni. Quindi notiamo dei cali quando ci sono i provvedimenti o le tensioni, quando c'è la paura di provvedimenti, la paura del virus. Notiamo un calo alla domenica significativo, ma nei giorni feriali abbiamo adesso, proprio mentre mi state chiamando, stavo per elaborare il dato di ieri. Sì. No? Quindi il dato dell'altro ieri è il 43%. Cioè il 43% di spostamenti rispetto a questo famoso 20 febbraio, che era un giorno normale come tutti gli altri, prima della crisi. Adesso esatto. Il 43%. Capisce che è poco, perché allora noi l'unica evidenza scientifica che possiamo avere, sebbene il virus possa essere mutato o quant'altro, ma diciamo matematicamente ci possiamo riferire alla Cina. La Cina poi ha chiuso proprio tutto. Improbabile. Ma infatti Sala, mi sembra proprio quello il punto, però, perché cosa vogliamo fare? Vogliamo inasprire ancora di più le misure? È necessario se vogliamo ottenere un risultato diverso, perché le faccio solo questa osservazione: in Regione Lombardia ci sono aziende che lavorano, molte aziende, l'agricoltura non si è fermata, abbiamo sentito ieri il suo collega dell'agricoltura Rolfi, abbiamo parlato anche di questo, si cerca di approvvigionare i supermercati funzionano, i servizi essenziali, le poste, quindi c'è tanta gente che va in giro a lavorare. Stamattina c'è una foto che gira sui siti, ma anche sul Corriere, la metropolitana di Milano affollata alle 6 di mattina, non credo sia gente che è andata in giro a portare a spasso il cane o a correre, quella è gente ecco, che però, sta andando ecco a lavorare. Però soffermiamoci su due questioni. La prima, abbiamo evidenza che molti controlli che vengono fatti, ero però al telefono con le forze di polizia, sono controlli che vengono fatti e multe o non multe, ma non è quello il problema, c'è gente che ancora la prende alla leggera, esce a correre, magari escono due. sì. Abbiamo evidenza di studenti che dicono: ciao, studiamo insieme, facciamo la lezione online insieme, e uno studente va a casa del vicino. Questo non è da fare, ognuno deve stare isolato in casa da solo, deve uscire solo per necessità e per lavorare, anche se ormai più del 50% delle attività industriali sono ferme in Lombardia. L'agricoltura sta funzionando e le attività commerciali sono al lumicino. Quindi se tutte queste attività si trovano in questa condizione, il dato del 43% e oggi siamo intorno al 42%, o meglio ieri, perché noi abbiamo le però mi scusi se insisto, sulla metropolitana invece quello è un problema. È vero che gente che va a lavorare, ma non ci si può affollare. Allora, però adesso, se viene ridotto il servizio di treni e di treni metropolitane, di autobus, perché questo è stato fatto forse anche perché c'era meno bisogno del servizio in generale, io non so esattamente in che orari sono state tagliate le corse, però è possibile anche che se il mattino non ci sono abbastanza corse la gente poi si affolla sull'unico treno che passa, o no? Guardi, da quello che so io non mi sto occupando di trasporti, ma nell'ultima riunione che abbiamo fatto i trasporti sono stati ridotti anche per riduzione del personale là nelle fasce orarie non necessarie. Quindi adesso io non ho evidenza di quanti convogli ci siano alla mattina presto. Certo, per esempio Pechino ha ridotto di un terzo la sua metropolitana e penso che sia ancora ridotta adesso. Il punto forse sta nel quello che diceva lei, le fasce orarie, perché bisogna garantire poi alle persone di poter andare e tornare al lavoro senza ridurre troppo la frequenza, perché altrimenti si rischia di riempirle troppo. La nostra direzione l'ha fatta, la nostra direzione trasporti l'ha fatta questa ricerca. Dopodiché all'interno dei convogli deve salire molto meno della capienza, cioè devono salire persone molto meno della capienza, perché altrimenti la metropolitana è il classico posto in cui ci si affolla, si crea vapore, cioè il cosiddetto. Allora forse bisogna aumentare i controlli anche in quella direzione, credo, perché stando appunto a queste foto che sono circolate, evidentemente comunque la gente che si muove, io non voglio dire che non ci siano persone che l'hanno presa alla leggera, anche se personalmente andando in giro nella mia città, Milano, vedo quasi tutti che anche se camminano col cane o vanno a correre, appena incontrano qualcuno vanno sull'altro marciapiede, mi sembra che ci sia un grande attenzione, però ripeto, c'è tanta gente che sta andando a lavorare perché è questo che gli viene richiesto, allora o decidiamo di chiudere le attività, di fermarle, oppure se invece andiamo avanti, poi non credo ci sia molto da stupirsi se c'è gente che si muove e anche in quelle modalità sui mezzi pubblici affollati. È un punto di vista, ma insomma credo che occorrerà tenerne conto. Io, Sala, la ringrazio, buon lavoro, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Questo è Carlo Genta. Allora, ciao Alessio, ciao. Allora, cosa ci diciamo? Ci diciamo che oggi è il giorno, puntata particolarmente importante di tutti i convocati, perché ieri, come sapranno tutti ormai, credo, gli europei sono stati rinviati e quindi si è aperto un nuovo scenario di calendari possibili per chiudere la stagione dei club. Ebbene, oggi sarà nostro ospite Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, che non ha ancora commentato pubblicamente questa decisione dell'UEFA e gli scenari che si aprono, lo farà tra quarto d'ora tutti convocati. Quindi restate collegatissimi più che mai oggi a Radio 24. Grazie Carlo. A dopo. Allora, rilanciamo l'appuntamento con tutti i convocati dopo il GR delle 14 con questo importante ospite. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco invece con Giulia Crivelli e Effetto Mondo.